I legali di Thomas Di Benedetto non siano particolarmente felici del trattamento riservato loro dal Sole 24 Ore. Beh, ieri i due colleghi Dragoni e Gatti hanno svolto il loro lavoro cercando di capirci qualcosa in più. Noi è da un po' di settimane, se non di mesi, che abbiamo acceso un faro, per quel che ci compete, ovviamente sulla storia di Thomas Di Benedetto e della cordata americana, e oggi arriviamo un po' di corsa, appunto perché fino all'ultimo momento abbiamo cercato di raccogliere le notizie. Si parla appunto di un Di Benedetto che entra e esce dagli studi legali e si aggira per Roma con tutte le aspettative che hanno i tifosi romani, e che in qualche modo questa vicenda sta mettendo invece in discussione. Ora cerchiamo di essere chiari e di raccogliere gli elementi certi, perché altrimenti... Claudio Gatti ieri lo è stato certamente, perché il titolo al suo articolo era "L'americano sconosciuto negli USA". Insomma, mi sembrava abbastanza, sì, la confusione è grande. Altri giornali oggi annunciano la data della firma, alcuni il 13, altri il 15 aprile. E quel che è certo è che si doveva chiudere questa trattativa in questa settimana. L'arrivo e lo sbarco a Fiumicino di Di Benedetto è stato accolto come quella quasi di un messia che doveva salvare, sì, la Roma. Improvvisamente si è arrivati a dire invece che, seppur con un accordo sostanzialmente raggiunto tra le parti, se ne riparlerà tra 15-20 giorni a Boston. Già questo lascia in qualche modo perplessi. Sì, anche perché è una trattativa che dura da molto tempo.